La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. L'articolo 17 affronta un'altra delle libertà più classiche della persona umana, la possibilità di riunirsi, quindi di incontrarsi. E cosa ci dice la Costituzione? I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Questa frase, questo periodo, ci fa veramente tornare in mente le Costituzioni di fine Settecento, inizio Ottocento, la limpidezza, la purezza del linguaggio legislativo, chiaro, accessibile a tutti. E quindi questo diritto pieno, riconosciuto sì ai soli cittadini, perché ovviamente la riunione può avere anche scopi politici, allora non qualsiasi persona, ma il cittadino, si può riunire ovviamente a fini pacifici e senza armi. Limitazioni potremmo dire abbastanza ovvie. Nella organizzazione delle riunioni diventa rilevante il luogo dove esse si svolgano. Infatti la riunione può avvenire in luogo privato. Luogo privato significa che è una casa di una persona, quindi un luogo nella totale disponibilità di un singolo, e lì la riunione può avvenire liberamente. Lo stesso accade per le riunioni in luogo aperto al pubblico. Il luogo aperto al pubblico è un posto, una situazione in cui tutti possono accedere normalmente mediante un varco, mediante il pagamento di un biglietto. Ad esempio penso a un cinema, a uno stadio, a un teatro. Anche lì, ci dice la Costituzione, per le riunioni in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso, cioè ci si può organizzare liberamente. Quando è che la Costituzione richiede di informare le autorità? Per le riunioni in luogo pubblico, una strada, una piazza, dove ovviamente serve non l'autorizzazione della pubblica autorità, ma serve semplicemente il preavviso. Che cosa significa? È proprio un cambio di impostazione, una rivoluzione copernicana, perché antecedentemente serviva l'autorizzazione della pubblica sicurezza per svolgere una riunione in una strada o in una piazza. Invece il Costituente consente che ciò avvenga solo con la semplice informazione, il preavviso. Ovviamente un preavviso a fini organizzativi, perché prima di poter occupare una piazza o una strada occorre prendere le adeguate misure. E la pubblica autorità non può vietare la riunione in luogo pubblico, perché la riunione può essere vietata e limitata solo per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, e il Costituente specifica chiaramente che questi motivi devono essere comprovati. L'articolo 17, quindi, è proprio un esempio di come noi ci troviamo in uno Stato liberale, uno Stato che non è il padre padrone dei cittadini, ma deve semplicemente controllare e vigilare lo svolgimento delle attività pubbliche.